Dialog, la realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Il tema è così fortemente evidente nell'emotività pubblica, così tenacemente stimolante della creatività di tutti quelli che stanno scrivendo in rete, è così drammaticamente e necessariamente da trattare da tutti gli organi di stampa, che questa mattina non mi sentivo di parlare d'altro che della famosa telefonata tra il comandante del Costa Concordia Francesco Schettino e il comandante della Capitaneria di Porto di Livorno Gualtiero De Falco. Due persone che rappresentano da quest'oggi l'esatta antitesi delle possibilità di espressione dell'umanità. Improvvisamente in Italia si è creato il partito di Gualtiero De Falco. Tutti siamo Gualtiero De Falco, tutti nella nostra vita abbiamo sempre rappresentato la integerrima maniera di porsi di fronte alla cialtronaggine, alla scorrettezza, all'inadempienza altrui, con una importante e concreta prova di essere noi la persona che riporta le persone al loro ordine. Ascolti Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina, lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave, e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. È chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, comandante, le dico una cosa. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono qua di fronte... Comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? Fallo venire qua. Comandante. Allora, in questo momento la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. La mia tendenza a lasciarmi così poco condizionare da quella che è la foga dell'opinione pubblica mi fa perfino sbagliare il nome del comandante De Falco, si chiama Gregorio De Falco. Da ieri questa telefonata l'avrete sentita tantissime volte, rappresenta un drammatico passaggio di comunicazione appunto tra la Capitaneria di Porto di Livorno e il comandante della nave che da qualche ora si stava inabissando, perlomeno si era posata su un fianco al largo dell'isola del Giglio. Le telefonate avvengono dalle 0:44 della notte tra venerdì e sabato, di quel giorno di cui tanto si sta parlando, tanto abbiamo parlato, tanto occupa anche le pagine dei giornali esteri. Ma in particolare questa mattina ci troviamo a una definizione che raramente potrebbe essere così esatta nella rappresentazione di un'antitesi. Abbiamo da una parte una persona che, avete notato, sembra quasi scritta da uno sceneggiatore questa telefonata, e sembra quasi che le due persone siano due interpreti, due attori, perfettamente calate nelle loro parti. Ora, l'operazione che voglio fare questa mattina è un'operazione che richiede un minimo di senso di astrazione rispetto alla realtà, al contesto della telefonata. Quello che ho osservato è la facilità con cui improvvisamente soprattutto i mezzi di diffusione dei pareri, delle opinioni, delle informazioni che sono quelli legati alla possibilità di socializzare attraverso strumenti informatici, si sono decisamente schierati nella denigrazione, nello svillenaggiamento, nella messa al ridicolo di questi due personaggi rappresenta la massima abiezione. Ho davanti a me uno dei tanti profili Facebook, ma ne sono aperti tantissimi. Su Twitter l'hashtag più cliccato è quello proprio cazzo torni a bordo, è la frase detta dal comandante De Falco, che è ormai diventato quasi una frase simbolo, sarà ripetuta immagino da qui a settimane, come la frase tipica del padre di Gianluca, dei soliti idioti. Gianluca, che cazzo, ecco, sembra quasi fatta apposta, sembra pensata. Non ci sarebbe un copywriter tanto bravo e acuto nel sintetizzare comunque in una frase un così profondo e variegato campionario di significati. Beh, vedo che oggi è molto facile, e questo non deve assolvere la persona, e questo non deve assolutamente avere nessun riferimento in quelli che sono stati fatti, ma oggi abbiamo tutti un modello di abiezione così perfetto, così spregevole in tutte le sue caratteristiche, che possiamo tutti sentirci buoni. Ma siamo tutti veramente, abbiamo sempre appartenuto, abbiamo sempre fatto tutto nella nostra vita, nella nostra professione, nella nostra maniera di porci, per poterci a tutto diritto oggi esibire il certificato di essere stati sempre iscritti nel partito dei De Falco? Veramente l'Italia è fatta da tanti De Falco che in questo momento si sentono tutti stretti attorno al loro leader, che poi è un onesto e corretto ufficiale di Marina, che lui stesso ha detto, l'ha dichiarato anche la moglie: io non sono un eroe, ho semplicemente fatto quello che in quel momento mi sentivo di fare, ho ripreso un altro comandante in una situazione drammatica perché sapevo che lui non stava facendo il proprio dovere. Questo è stato sufficiente però a renderlo un eroe. È proprio giusto che un paese abbia bisogno di queste proclamazioni immediate di eroismo per una persona che semplicemente fa il proprio dovere? 800240024, questa è la riflessione che vorrei fare con voi oggi. Guardi, Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, le faccio passare l'anima di guai. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vada a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, no, non mi sto rifiutando. Lei mi sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, no, e mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Sansonna è qui con me in studio perché oggi avremmo dovuto fare la consueta trasmissione di Sansonna dedicata al cinema, ma non ce la siamo sentiti questa mattina di infarcire di spezzoni di film che ci avrebbero richiamato fortemente queste due figure simboliche alla memoria, ma avremo Sansonna per evocare quanto questi due personaggi, per noi nella sua lettura, ci evocano delle figure già fortemente calcate dalla storia del nostro cinema, dalla nostra narrativa. Sei d'accordo, Giuseppe, che il capitano Gregorio De Falco, capo sezione operativa della Capitaneria di Porto Livorno, e il comandante Francesco Schettino, il comandante che ha abbandonato la sua nave nel momento del naufragio, meriterebbero, uscendo, lo ripeto per l'ultima volta, da quelli che sono i fatti reali, astrendoli a quelli che sono diventati figure simboliche dell'immaginario popolare, metterebbero un posto tra le tante figure, le tante macchiette, tanti personaggi forti, tragici, miles gloriosus, eroi che noi abbiamo visto nel cinema italiano e non soltanto. Il problema è che noi siamo sempre sospesi fra orrore e folklore, come diceva Flaiano, la situazione è sempre grave ma mai seria, e soprattutto c'è la necessità di creare un immediato, si è condensato un immediato dualismo alla Coppi, Bartali, Zoffa, Albertosi, insomma c'è sempre stata in Italia la necessità di Guelfi e Ghibellini, di contrapporre. Poi talmente perfetto che nessuno avrebbe potuto immaginare due figure così rappresentative delle due antitesi, la massima infingardaggine e il massimo senso del dovere. Un austero con la voce un po' anche nella telefonata, un po' all'Agus con Fracchia, no? Austero, che è l'altro con i ricci impomatati da attore porno, con questi Ray-Ban, con questa parlata da napoletano indolente, cioè, è ovvio che si prestano a dei tutti cliché. Rappresentano con e lo infatti, smoking bianco, come dice Massimo Gramellini, come il comandante di Love Boat, la famosa serie televisiva. Ma infatti su Facebook, che è una cassa di risonanza dell'idiozia media, no? Fra le altre cose, no? Cioè, ognuno si è fatto il suo blob personale, ieri ha messo le sigle di Love Boat, qualcuno ha fatto il colto mettendo la nave va di Fellini, il Titanic, insomma, cioè, ognuno cerca di ricostruire qualcosa. Capitano, che... mio capitano, riscritta su qualcuno che... addirittura ha rimontato la cosa di Costa Crociere con la pubblicità della Costa Crociere, con la donna disperata nella vasca di casa che pensa con nostalgia e immagini dell'affondamento. Però quello che si rimuove è che in fondo c'è una tragedia tremenda che stiamo vivendo in questo momento, che è ancora in corso, quindi tutto sommato a rivestirla di questa alvea di cazzeggio mediatico internetiano è un po' triste, insomma, dal mio punto di vista. Ecco, addirittura estrapolando tutti gli elementi chiave di questa telefonata, ho davanti a me un profilo Facebook in cui, attualmente, essendo andati a prendere le foto sulla rassegna di foto di Google, essendo andati a cercare su Wikipedia cosa significa, uno dà lezione al capitano Schettino di cosa sia la biscaggina, che è la scaletta pioli di corda. E come quando ti ricordi le notti in cui c'erano le regate, che la gente si svegliava alle 4 di notte, anche ragionieri si svegliava alle 4 di notte, ognuno sapeva di tutto sui nodi marinareschi, e così diventa anche la tragedia, tutto viene assorbito come qualcosa di cui occuparsi nello specifico. E tutti sentono giudici, naturalmente, di ogni persona, di ogni evenienza, di ogni situazione, e tutti sentono sempre dalla parte del giusto. Quello che questa mattina vorrei portare a riflettere, gli ascoltatori, ma vi sembra possibile e radicalmente accettabile il fatto che oggi la maggior parte degli italiani si senta di aver sempre appartenuto al partito di De Falco? Ma dove? Laura, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Hai perfettamente ragione, è proprio quello che stavo pensando ascoltando appunto quello che stavate dicendo. Abbiamo bisogno sempre degli eroi per tirare fuori la parte migliore di noi. Io devo dirti, sono un po' incazzato su questa cosa, posso esprimere la mia incazzatura in qualche modo? Perché uno, visto perché, che cazzo, diciamo, la parola del giorno ormai va bene, certo. Lo so, non dovrei dirlo anche se sono una signora, però sono, vabbè, le signore, sai, ormai ne hanno una familiarità nell'uso verbale che non è accettabile. No, appunto, abbiamo bisogno sempre di eroi, perché è vero che questo Schettino è stato veramente un incapace, però io mi chiedo chi ha messo Schettino al comando di quella nave. 4.000 persone che dovevano essere briffate, e uso un termine che non mi piace nell'aziendalese, su come reagire in momenti di emergenza. Non è stato fatto niente di tutto questo. Allora, sopra Schettino c'è l'armatore della Costa Crociere, c'è un amministratore delegato dalle mani pulite, che in questo momento stanno usando Schettino come capro espiatorio. Allora, se veramente dobbiamo licenziare gli dèi, come qualcuno ha scritto, dobbiamo cominciare da queste persone, altrimenti non cambierà nulla. Quindi sei d'accordo, sei d'accordo, Laura, che esiste una circostanza umana che potremmo definire e semplificare nella schettinaggine in ognuno di noi, soprattutto nel sistema del nostro paese, che in questo momento a tutti fa comodo considerare, certo, condensate, addensate in un'unica persona? Certo, sono perfettamente d'accordo con te su questo. Di cui non voglio alleviare le responsabilità, ma esiste una magistratura, per questo non sono io che devo giudicarlo. No, ma infatti, cioè, Schettino va giudicato per le sue responsabilità, ma al di là di questo, cioè, non è possibile, ecco, io voglio dire questo, non è possibile fare alti profitti giocando con la vita delle persone, non è possibile più. Io sinceramente per questo sono incazzata, io non sono più disposta ad accettare questa cosa. Cosa fai nella vita, Laura? Cioè, non si possono fare, Laura, cosa fai nella vita? Da 4.000 persone, io faccio la consulente aziendale, io lavoro per l'imprenditoria, e sono al servizio di chi mette i soldi, ma sinceramente sono, e voglio continuare a fare questo mestiere, perché è il mio mestiere, è quello che so fare, ma io non posso sopportare di vedere una crociera con 4.000 persone e non ci sono le scialuppe di salvataggio, le persone non sapevano cosa fare e c'erano le persone che rubavano la scialuppa di salvataggio, donne e bambini. Quindi tu mi stai dicendo tra le righe che La categoria della schettinaggine è una categoria ben presente anche nell'organizzazione aziendale che tu curi, tu osservi e tu dirigi, sulla quale tu consigli e sei consulente. Ah certo, ci saranno il 5% degli imprenditori veramente da una visione, ma che hanno veramente una visione ideale, che sanno unire il profitto e tutto quello che è etico. Allora, quindi in percentuale, momento... quanta defalcheria tu vedresti nell'impresa italiana in genere, come categoria umana? Poca. Benissimo, questo lo sapete. Mario, buongiorno. Buongiorno. Sono io? Sì, lei. Sì, buongiorno. Volevo così considerare che questo fatto è praticamente lo specchio della società attuale italiana. cioè dove il dovere di una persona diventa quasi spettacolo, diventa mito. Noi non abbiamo più il senso del dovere, purtroppo, quindi quello che quell'ufficiale ha fatto giustamente, perché sappiamo che le leggi marinare sono di sicuramente e dovutamente più dure delle leggi normali, è solo il suo dovere, ma in Italia, oltre al fatto che bisogna fare spettacolo di tutto, abbiamo perso veramente di vista il senso del dovere, il senso del quotidiano, il senso del fare quello che uno dovrebbe fare. Ecco, ma è lei d'accordo che oggi tutti quelli che si divertono impegnano loro preziosissima creatività e loro preziosissimo tempo nel creare strumenti di sbeffeggiamento della schettineria racchiusa in una persona, non hanno necessità magari di farsi un loro personalissimo? Che faccio io per primo? Io per primo sono stato molto schettino nella mia vita e momenti di schettinaggine quotidiani, quindi non mi tengo fuori, ma mai direi che io tutta la vita sono stato il comandante De Falco. Purtroppo è così, purtroppo è così, più si va avanti, io adesso ho più di 60 anni, quindi ne ho visto un po' di acqua passare sotto i ponti, purtroppo si sta ingrandendo questo modo di fare. Non è che qualcuno piano piano stia intervenendo sui giovani, su anche a scuola e via. No, sì, io non faccio catastrofista e non voglio dare lezioni a nessuno. Io dico soltanto che sto osservando, visto che questo è il mio compito, il mio osservatorio, il più moderno e il più fantastico strumento di riflesso dell'opinione pubblica, e dico, mi viene fuori un paese forcaiolo, cialtrone, pressapochista, e soprattutto mi fa spavento questa voglia di forca che vedo circolare. Giuseppe Sansone. Questi eroi digitali, ovvero eroi da tastiera, questa massa forcaiola che vedi spesso nei film di Fritz Lang, come M, il mostro di Düsseldorf, quando papponi, mignotte processano il mostro nel finale del film. Però c'era un libro molto acuto, del perfido ma appunto brillante Antonio Ricci, che parlava del suo Gabibbo. Dice, io disprezzo, detesto il Gabibbo, però è l'eroe che voi italiani vi meritate, diceva, perché insomma io è quello che condensa un po' la necessità di sversare dentro il mito dell'eroe il liquame della propria immaginazione, insomma, cioè tutti quanti hanno bisogno di crearsi un eroe finto, ma che sia un mito e non un esempio da seguire ciascuno nella propria vita. A me è capitato, non voglio, per esempio nel caso di Zeman, no? Di una persona di cui mi sono occupato a lungo, è stato eretto a Savonarola, però è stato esiliato allo stesso tempo, perché il suo esempio era troppo scottante per le vite di ciascuno, cioè era meglio piangere commossi sulla sua assenza che magari cercare di imitarlo ciascuno nella propria vita. Ecco, insomma, io aggiungo un'altra cosa, per questo mi chiederò probabilmente molto dissenso. In pieno rispetto e totale condivisione l'atteggiamento del comandante De Falco, io posso dire che nella vita hanno conosciuti tanti, di all'apparenza De Falco, di uomini rigorosi, imperturbabili, impeccabili, sempre pronti a impugnare la morale e a incarnare la morale in sé, e nascondendo al di là non solo la schettinaggine in sé, ma ancora peggio, ancora la... qualcosa che è ancora peggio dell'infangardaggine, che è l'ipocrisia totale, è la totale discrepanza fra il comportamento esteriore e la realtà vissuta e incarnata interiormente. Teresa? Teresa? Sì, pronto? Eccomi. Eccomi. Buongiorno signor Nicoletti. Niente, io volevo riflettere, far riflettere se era possibile nel mio piccolo, di quanto nel quotidiano abbiamo davanti a noi delle schettinaggini. Per esempio, vabbè, senza come si dice, andare in questa tragedia, a me è capitato spesso di andare... Sì, ormai abbiamo estrapolato i due personaggi dalla realtà, sono entrati delle categorie dell'essere e come tali li trattiamo. Ma io veramente sono un po' scandalizzata da questo, perché io ripeto, nel quotidiano, cioè si entra in un ufficio postale, comunale, insomma in qualche servizio pubblico, e ci stupiamo di quando magari qualche impiegato è educato, quando invece dovrebbe essere la normalità, essere educati e magari stupirci del contrario. A me capita spesso di entrare in una posta e trovare personale educato e uscire e stupirmi del fatto che... Quindi lei riporta in un'esperienza personale, quotidiana, sì, esattamente quello su cui noi ci stiamo interrogando questa mattina. Quando appare il defalco, cioè la persona che sta correttamente al suo posto, a noi sembra un evento. Perché? Perché siamo così infarciti di schettineria che ci circonda, che a questo punto... quella rappresenta l'eccezione, ma le dirò di più, siamo tutti grati in questo momento a Shida Occasione di aver creato la categoria della schettinaggine, perché ci fa sentire tutti buoni, tutti De Falco, Giuseppe. Ma infatti è stato il De Falco persone si è sottratto saggiamente a questo, intelligentemente, ma in De Falco si è condensato in un'unica figura l'eroismo, perché è una normale brava persona, ma fine. Appunto, ma ce ne sono state tante in questa vicenda che però hanno bisogno di una condensazione in un unico personaggio. I media ne hanno bisogno di condensarlo, di racchiuderlo in un'unica figura, perché è più comodo da maneggiare nel discorso del dualismo. Come scrive stamattina giustamente sempre Gramellini, se c'è un eroe in tutta questa vicenda è il commissario di bordo, che con la gamba spezzata ha continuato a rimanere a bordo e a salvare, anche gli abitanti dell'isola, quelli che hanno comunque e che verranno lentamente fuori, tanti piccoli eroi, ma quelli sono gli eroi che non ci interessano, perché l'eroismo che nessuno di noi vorrebbe imitare, nessuno di noi vorrebbe trovarsi nella circostanza di mettere a repentaglio la propria vita per la vita di un altro. Invece tutti noi siamo capaci di rappresentare il volto integro, imperturbabile, imperterrito di chi sta dalla parte del giusto. Melog, la realtà condivisa. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti! Quanti cadaveri ci sono? Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo! Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E te vuole tornare a casa, Schettino? E voi vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscacina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora! Come? Sono assieme al comandante in seconda qui. Salite tutte e due allora. Tutte e due, come si chiama il secondo? Come si chiama il secondo? Dimitri. Dimitri cosa? Dimitri Cristidis. Lei e il suo secondo salite a bordo, ora, è chiaro? Cosa? Io voglio salire a bordo, semplicemente che l'altra è qua, qua. Ci sono 80024 0024, vi facciamo risentire, ma l'avrete già sentito non so quante volte, perché è da ieri pomeriggio, tutta la prima, seconda serata, Vespa e Matris contrapposti hanno parlato di questa telefonata, abbiamo fatto sentire ancora una volta un brano della telefonata fra il comandante Francesco Schettino e il comandante Gregorio De Falco, che parlano mentre il Costa Concordia sta adagiato su un fianco e le persone al suo interno stanno morendo. Quello che questa mattina stiamo cercando di fare assieme a Giuseppe Sanson è analizzare i due personaggi, estrapolando la realtà, visto che ormai a tutti gli effetti sono entrati nell'immaginario comune come due poli antitetici dell'essenza umana. L'uno il rigore, il senso del dovere, la competenza, l'altro l'infingardaggine, la ricerca della scusa, la facile maniera per eludere le proprie responsabilità. Ma è esatto che tutti si sentano così felicemente pronti a dare contro, a sbeffeggiare, a mettere la berlina il comandante Schettino, anzi la schettinaggine è una categoria dell'umanità, usciamo dalla realtà, visto che c'è un'inchiesta in corso, c'è chi sta giustamente lavorando per ristabilire la verità dei fatti, e quanti in realtà a tutto a pieno diritto si sentono aver sempre in ogni occasione della propria vita concreta, reale, sentimentale, relazionale, professionale, essere stati sempre dalla parte del comandante De Falco. Sentiamo velocemente intanto Paolo. Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, premesso che stamattina mi sono svegliato con pieno di De Falco in giro, anche se penso che poi siano per la maggior parte degli Schettino travestiti. Io ho lavorato per anni in una città. Sì, perché poi in fondo hanno la stessa divisa e sono tutti e due campani, parlano la stessa lingua, è facile confondere. Infatti io in un servizio questa mattina per il giornale di Radio 24 ho detto un Gianno bifronte con due facce. Sì, sì. Io ho lavorato per anni in una centrale operativa di 118 e anche sul territorio. La mia condizione psicologica sulla mia bella poltrona della centrale ergonomica col computer, il riscaldamento e il telefono in mano era diversa rispetto a quando intervenivo su un assiderato 2000 metri a meno 8 gradi con un elicottero che mi rinfrescava l'aria attorno girandomi sulla testa con le pale in movimento. Di conseguenza io sono d'accordo che dovranno essere riconosciute delle colpe a questo schettino, ma ci provvederanno i tribunali, ma la situazione psicologica va tenuta in conto. Io non penso che avessimo potuto assistere alla stessa conversazione, praticamente facendo prendere l'uno il posto dell'altro, che la conversazione sarebbe stata di molto diversa. Posso farle una domanda, Paolo? Sì. Tecnica, è una cosa che mi sta rovellando nel cervello, però non vorrei sembrare in questo momento. Secondo lei, il comandante De Falco sapeva che la telefonata era registrata e Schettino ne era consapevole? Sì, tutte quelle centrali operative registrano le chiamate proprio per questa eventualità. Quindi il comandante De Falco aveva la perfetta consapevolezza che ogni frase, senza togliere nulla naturalmente al suo ruolo, che ogni frase, ogni pausa, ogni tono della voce sarebbe stato comunque passato alla storia. Schettino probabilmente non aveva la stessa consapevolezza. No, l'aveva la consapevolezza, ma secondo me De Falco si è reso conto della instabilità psicologica dello Schettino e gliel'ha voluto ribadire, ricordandogli: guarda, ricordati che stiamo registrando. E come per riportarlo un po' sui binari, ma è evidente che l'altro fosse in confusione totale. E poi adesso anche questo, mi fa stupire tutto questo parlare. Questi, io credo, non ho mai frequentato crociere, ma che queste manovre fossero un po' all'ordine del giorno. Solito Italia, che finché non succede la tragedia non ci indigniamo. Poi sì, la liturgia dell'inchino, questa sorta di arruffianata fra terraferma e comandante la nave, che servì a creare consenso a bordo, quindi alla fine della crociera far lasciare dei pareri positivi nelle schedine viene dato ad ogni passeggero, che diventa poi l'unico criterio di valutazione del comandante, era una prassi accettata di cui nessuno si poneva il problema, anche se usciva appunto dalle regole e dai protocolli. L'abbiamo già detto. Fabrizio. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno, grazie. Mi sente? Sì. No, volevo dire, mi avete anticipato di un attimo su cosa pensavo io, però senza nulla togliere al capitano De Falco. Assolutamente. È doveroso tuttavia dire che il capitano De Falco, sapendo che la sua conversazione col comandante della nave... A un certo punto lo dice pure a Schettino, lo avverte di questo fatto. Sarebbe stata fondamentale ai fini dell'indagine, lui era conscio di questa cosa, perché un pubblico ufficiale che lavora a contatto tutti i giorni con queste cose lo intuisce immediatamente. Infatti gli fa la domanda, dice: lei si rifiuta di salire a bordo? Lei mi sta dicendo si rifiuta di tornare a bordo? Lui dice: no, non mi rifiuto. Ecco, e quindi in quel momento ha intuitivamente marcato il suo rigore e la sua severità, ma questa è stata un po' costruita questa frase, ma chiaramente, ma senza nulla togliere al capitano, però lui si è reso subito conto anche nella sua completa lucidità, mentre invece da parte di Schettino era in confusione, quindi ha un po' marcato questa cosa. Inoltre i media, secondo me, si sono scagliati in modo esagerato nei confronti di Schettino e lo hanno anche privato dell'unica manovra che lui stesso ha fatto, quella di avvicinare la nave alla costa, che è l'unica cosa considerando i suoi grandi errori, però l'unica cosa giusta che ha fatto, secondo me, e le indagini proveranno che è stato lui, non è stato il vento che l'ha portata contro la costa, lo hanno anche privato di questa cosa dicendo che la nave è andata da sola, cioè questa cosa sì, mi è sembrato... Però mi scusi, io non voglio Costantina entrare in merito perché sennò facciamo il bar dello sport, non ho cognizioni per capire e giudicare, c'è chi lo sta facendo, io mi fermo al contributo dato lei che è fondamentale, lei mi sta ribadendo il fatto che nella considerazione emotiva delle categorie dell'umanità, della schettinaggine e della defalcheria, dobbiamo tenere conto di molte circostanze, che De Falco era consapevole, fermo, lucido, in un habitat di cui lui padroneggiava completamente tutte le circostanze, Schettino non lo era. Giuseppe Sanson. Sì, anche analizzando semplicemente la telefonata, il tono di voce di Schettino è molto svagato, qua sembra indolenza, ma effettivamente, come ha detto questo ascoltatore, potrebbe anche essere proprio completo stato confusionale, insomma. Invece, tornando sempre alla condensazione simbolica di queste che è quella che più ci interessa oggi. Cioè persino Travaglio nella sua ossessione oggi l'ha proiettato in Schettino Berlusconi, cioè, quindi continuando testimoniando, registriamo sussulto di mitografie insomma attorno a queste perché il sistema media funziona così, ha bisogno appunto di costruire appunto questi due poli attrattivi, poli positivo e negativo, e alimentarli in un eterno fiorire di plastici. Ma adesso ci saranno battaglie navali da Vespa, insomma si accadrà di tutto, perché appunto, prolifereranno appunto. No, per fortuna a De Falco non è attribuibile la sobrietà, se no sarebbe stata un'equivalenza perfetta tra prima e dopo. Io spero che non vada in televisione, sinceramente, che si sottragga. Io spererei tanto, ecco, che ci risparmi il comandante De Falco della contrapposizione, del faccia a faccia, perché già oggi vedo in internet il fotomontaggio, cioè le due foto contrapposte, Schettino vestito appunto da Love Boat con lo smoking bianco e l'altro con il suo rigore perfetto. Ti ricordi Siamo Uomini o Caporali, c'era Totò che diventava l'uomo del giorno, non è, con Paolo Stoppa, perfido direttore di giornale, insomma. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Niente, sono stato praticamente anticipato già dagli altri telespettatori. No, ma dica la sua, perché evidentemente toccato una riflessione che nell'ara non è stata così radicalmente poi espressa oggi. Io parto già dal presupposto, diciamo, che le colpe del comandante ci sono. Già detto, non ripetiamoci, sì. Però io forse la domanda che non è stata fatta è questa. Voi pensate che la presenza fisica del comandante a bordo della nave poteva risolvere qualcosa o avrebbe evitato i morti o i dispersi? Quello è il suo dovere, che vuol dire? Lui lì doveva stare, quello non ci piove. No, infatti l'ho già premesso. Nel bene o nel male doveva starci. No, nel bene o nel male ci doveva stare, e sono d'accordissimo su questo. E questo mi fa riallacciare appunto alla telefonata invece del comandante della capitaneria di porto, che secondo me, il mio parere, che secondo me è stata una telefonata un po' da film, nel senso. Com'è? Totalmente da film, se no staremmo qui a parlarne. Stupiti dalla perfetta scrittura del testo delle due parti e delle due voci. Allora, ti dico questo, ok, chiamo addosso al comandante per le sue colpe, però diciamo non vorrei osannare poi così il comandante, perché lui probabilmente invece di star perdere tempo lì con il comandante poteva fare qualcos'altro, lui ha fatto esattamente quello che doveva fare, no? Adesso non esageriamo nel senso opposto. Il comandante De Falco, persona rispettabile e onesta, sta dicendo a tutti quelli che lo cercano, lo vogliono intervistare: guarda, io non sono eroe, ho fatto quello che devo fare, fine. Lui doveva stare alla centrale, era il capo della sezione operativa alla capitaneria di Porto Livorno, e da lì doveva fare la sua operazione coordinamento. Ha fatto esattamente quello che doveva fare, non togliamo nulla a lui, però nella proiezione fantasmagorica dei due personaggi forse qualcosa a dire ancora abbiamo, ma tra un istante. Melog, la realtà condivisa. Buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io volevo solamente esprimere il mio concetto, cioè tu tutti abbiamo dello schettino, tra virgolette, nel senso che tutti quando si lavora si può sbagliare e tutto quanto. Però in questa situazione questa persona è stata ripresa, lo schettino sa che lavoro sta facendo. Non possiamo prescindere dal fatto, è una persona di quell'età, 55 anni, che conduce una nave del genere, se è ripreso e sa quello che deve fare, non può in quel momento non farlo più. È lì dove c'è l'errore, è lì è giusto che passi questo messaggio. Cioè, lui può aver sbagliato, eccetera, ma nel momento in cui è stato ripreso non può evitare di fare quello per cui gli è stato detto di fare. Sì, però mi scusi, in questo momento io non sto facendo il processo di difesa d'ufficio di schettino. No, però mi sembra che passi un'idea dove tutti elogiamo, tra virgolette elogiamo nel senso il defalco, perché è giusto che sia così, perché ha fatto il suo lavoro, e qui sembra che però tutti abbiamo comunque un'indole a volte di sì, è vero, si sbaglia nella vita, si può sbagliare. Però in questa situazione è giusto che passi un messaggio dove chi è ripreso in quello che sta facendo è giusto che poi riprenda la sua retta via. Cioè io non metto in dubbio che in quella situazione quella persona poteva sicuramente avere un attimo di si è perso e ci sta. Però nel momento in cui gli è stato dato un ordine e facendo quel tipo di lavoro sapeva che doveva farlo, non l'ha fatto. Allora è lì. Ma questo fa parte della categoria dello spirito della schettinaggine, essere proprio così. Noi stiamo estrapolando da un dato di cronaca ormai ascoltato delle categorie umane per riflettere sul fatto di quanto queste categorie riflettano delle realtà. Figuriamoci se qua qualcuno sta cercando di fare uno scarico di responsabilità. Ma mi sembra così perfettamente costruita la figura anche dell'antieroe, dell'eroe negativo, di colui che sbaglia, che vale la pena di farci una riflessione. Quanto in realtà noi in questo modo d'essere molte volte ci troviamo a confrontarci, ci troviamo ad incarnarlo, ci troviamo ad assecondarlo, ci troviamo ad omettere il fatto di denunciarlo. Immaginate oggi che, visto che è così frequente il blitz della Guardia di Finanza in certe categorie di professionisti, quante volte noi abbiamo trovato davanti uno schettino che ci guardava con gli occhi imploranti dicendo lascia perdere, non mi chiedere lo scontrino, oppure ancora di peggio, e ci chiedeva di fare delle cose che erano contro la nostra coscienza, eppure lo schettino che era in noi diventava suo complice. Giuseppe Sanzon. Il problema della drammaturgia di questa telefonata è che effettivamente De Falco è consapevole, perché sta indagando, sta creando una prova giudiziaria, e lo sa benissimo, non è tanto che si mette in scena, è che sta creando una prova giudiziaria e quindi incalza. Tanto è agghiacciante questa foto, è un pre-interrogatorio, è grottesca questa foto di gruppo di tutto lo stato maggiore della nave sulla scena preservatoria, mentre la gente, se non ci fosse la tragedia dietro, sarebbe puro grottesco. Però ti ribadisce la commedia l'Alberto Sordi che riflette questa cosa. Certo, però sullo sfondo c'è gente che sta morendo in maniera catastrofica e continua a morire in questo momento, quindi questo è la discrasia, l'impossibilità di ricondurre tutto questo a qualcosa di accettabile. E comunque appunto De Falco è consapevole, benvenuto nella società dello spettacolo, non l'abbiamo inventato noi, questo termine. Certo. No, infatti siamo in pieno debord, quindi non c'è nulla da fare. Carla, buongiorno. Buongiorno, io ho chiamato perché appunto, come dicevo, la sua collaboratrice, sono stata medico ospedaliero in un servizio di emergenza per più di 30 anni, quindi ho vissuto molte volte, soprattutto di notte, delle emergenze molto gravi, perché io sono una radiologa, quindi c'erano le TAC da fare d'urgenza in grandi incidenti stradali, insomma tutte queste cose, e nel gruppo dei vari medici che poi vengono coinvolti in questi eventi, dal chirurgo al rianimatore al neurologo, così magari succede che qualcuno arrivi lì alle 3 di notte, alle 4 di notte, chiamato in emergenza, abbia voglia di scherzare, di fare le battute fuori luogo, così, però le situazioni sono tali per cui vengono sempre poi reinseriti in quello che è il quadro della, cioè tutti poi si riallineano, quindi questo era un concetto. L'altra cosa che volevo dire rapidamente è che mi sembra che non si debba discutere figura del capitano De Falco. Non stiamo discutendo. No, ma nel senso che la sua collaboratrice mi ha detto che non dovevo andare, andavo fuori tema, ma non mi sembra di dire niente di strano. Io ascolto sempre Radio 24. Non la sto interrompendo, la sto facendo esprimere, infatti. No, quello che le sto per dire, nel senso che io ascolto sempre Radio 24, sì. Io ieri sera sono rimasta veramente sconvolta e proprio amareggiata, ho cambiato canale, e questo succede ormai spessissimo, perché al solito a Zanzara stavano analizzando la pronuncia del capitano De Falco, cioè voglio bene, ma no, ma è una cosa oscena, cioè non ma scusi, ma lei porta adesso, non è che voglio fare le difese d'ufficio del collega Cruciani, che si sa difendere da solo benissimo, ma lei adesso sta sprecando il suo tempo, onestamente, adesso veramente fuori tema, aveva ragione la mia collega, Cruciani ha le sue ore di tempo per ricevere le telefonate, lo fa spesso, si contrappone in maniera a volte anche veemente con il suo pubblico, porta a difesa del suo modo di condurre la trasmissione, validissima argomentazione, il pubblico esprime il suo punto di vista, se non piace può benissimo ascoltare un altro programma o perlomeno telefonare in quella trasmissione e dica perché trova sbagliato analizzare il dialetto o la cadenza. Io non lo trovo sbagliato, perché l'omogeneità di appartenenza regionale dei due personaggi rende ancora più solido il mio pensiero che sia un Gianno Bifronte. Se uno fosse stato di Bergamo e l'altro fosse stato di Reggio Calabria, avremmo subito avuto le due Italie. Non possiamo nemmeno dire questo, perché sono la stessa persona, vestiti uguali, fanno lo stesso lavoro, parlano lo stesso, hanno la stessa cadenza nell'esprimersi, eppure oggi ci hanno diviso nell'appartenere all'una o l'altra categoria. Thomas. Buongiorno. Al di là del fatto che l'evento drammatico mi ha profondamente colpito, perché io frequentavo l'isola da sempre, da bambino, e prima di me mio padre, quindi conosco perfettamente i luoghi. Al di là di questo, volevo evidenziare un aspetto, cioè il fatto che quando si manovra qualunque mezzo ad altissima tecnologia e al di là della velocità, ma proprio con complicatezza tecnologica, si crea dopo un po' di una sorta di tranquillità, di rilassatezza che viene a sommarsi all'esperienza. Cioè, paradossalmente, un capitano, come succede ad esempio anche per i piloti, di grande esperienza, nelle manovre azzardate, perché quello che ha fatto è stata una manovra azzardata, diventa addirittura più imprudente, ovviamente, di un capitano di meno esperienza. Sì, la capisco perfettamente. È come un po' il paracadutista sportivo che ha molta esperienza, arriva a terra, ripiega velocemente senza fare i dovuti controlli per risalire e risaltare di nuovo. Più è bravo, più avanti nel tempo, più ripiega il paracadute in maniera veloce e sommaria, perché sa come si fa. E lì accade l'incidente. Marco. Pronto? Eccomi. Sì. No, aspetta, sono stato incuriosito da un po' di telespettatori, di ascoltatori che chiamavano. Velocemente siamo in sigla? Velocemente è questo, cioè non c'è da meravigliarsi del tono, soprattutto delle parole usate dal comandante, diciamo, della capitaneria di porto, perché questo è un tipico linguaggio che si usa quando si è militare. Io ho fatto 10 anni da aeronautica militare. Perfetto, chiudiamo così, esattamente il tono che usa un comandante quando impartisce ordini, che ha fatto il militare, lo sa. Ci sentiamo domani, grazie Giuseppe Sanzonna.